Questo programma è offerto da Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Puntate precedenti. Io sono tornato. Dove sei stato? Perché mi hai lasciato solo? Io stavo da briatore. Tanto per chiudere tutto. No, avevo bisogno di te qui. Tu sai dov'era Alexa? Cosa le hai fatto? E l'ho rispedita a Amazon, che mi ha fatto un buono per altri prodotti. Con te facciamo i conti dopo. Consegna per laboratorio Amazon. Ehi, ma quella è una vecchia unità Alexa. Prepara il formattone. Cos'è stato? Lasciatela. Iron Man. Sei salvo, ora è tutto a posto. Chi sei? Ma cosa? Oh no! Ho bisogno del tuo aiuto. Ai. Che aiuto, no? L'estate sta fredda. Bravo Iron Man. Goditi il tuo momento. Sto arrivando. Dove ti porto oggi? Al forte. Come se fossi già stato qui. Possiamo inaugurare il musicale d'inverno. Che è successo qui? Non mi piace. Qualcuno è stato qui. Chi può aver fatto questo? Sembra provenire dal giardino. Il giardino? Che succede? È una vecchia storia. Prova funzionamento. Vediamo un po'. E le segrete vie del mio cuore suavemente tiene. Ho cercato un aggiornamento per recuperare qualcosa della memoria di Alexa. Poi ma mi sa che ho scaricato delle cagate. Poi di nuovo 100. Poi senza smettere altri 1000. Poi 100. Poi 100. Poi 100. Poi 100. No vabbè, poi ancora 100. Non ci siamo. Questa è in serie pia. Non può fargli annunci così. Dai, troveremo una soluzione. Magari la portiamo al forte. E a proposito di trovare soluzione... Che fai? Ecco qua. Come ti sei conciato? Chiamami The Garden Man. Cosa? Non capisco. The Garden Man. Sono il tuo nuovo Robin. La tua spalla. Tu Batman, io Robin. Tu sei pazzo. E poi non ce la farai mai ad affrontare certe cose. È roba da supereroi. E tu? E io? Io che? E tu? Quando è l'ultima volta che hai fatto qualcosa dalla quarantena? Ricordi le noise di quest'anno? Sì, ci stavano di nuovo le bestie rare. Stavolta non ha piovuto. Hai registrato? No, perché... E com'è stato? Che state facendo? I tuoi muscoli sono atrofizzati, li ricostruiamo. Mi fanno male gli occhi. Perché non li hai mai usati. Ok, ecco. Ammetto che l'attività fisica è una dimensione che ancora mi genera un leggerissimo senso di disadattamento. E poi c'è pure la direttona, mo. Pure la diretta. E c'è pure The Bamboo. Mi aiuterai, Iron Man. Lo sto già facendo. Nei modelli che spaccio per altro la cosa. Dimmi qualcosa. Ecco, signor Monocchio, venga. Le tracce portano al giardino. È molto che non ci vado. Ma come si è conciato? Signor Monocchio, non ci si metta pure lei, ma aspettavo un po' più di appoggio, eh? Se non altro perché la pago. Io sono The Garden Man. Vabbò. Andiamo, guarda, ma sì, sì, certo, andiamo, vabbù. Ecco, sì, sì, sì. Qui c'è il bambù, è cresciuto un po'. Wow, e qua c'è sta una foresta, ci sta una foresta, non si vede niente. E qua sono due mesi vabbè, di fatica. Sì, ho capito, sì. Dobbiamo capire da dove è entrato. Chi? Mariolo? Chi? Vabbè, io intanto faccio un preventivo, che non si sa... Ma chi era? Oh. Chi ha gridato? Oh. Chi ha lucato? Veniva dal bambù. Da sotto il bambù. No. Io aspetta, io me no, aspetta, no, dove va? Non mi lasci. No. E la vedete voi non a rivederci. No, aspetta, voglio sapere signor Monocchio, niente, non se ne vada. Non mi lasci solo. Ok. Io sono The Gartner. Io sono. Vieni a giocare con noi, Daniel. Ma che stai? Ma che davvero? Ma chi te sei in cura, sa? Io mi metto qui, mi guardo un po' di TV e faccio finta di niente. Io non ho sentito niente. In questo preciso momento per trovare anche solo una piccola traccia dell'innocente scomparsa. Potete vedere una sua foto dietro di me sullo schermo. Invitiamo chiunque ha visto la piccola ad avvertire. Scordiamo la bambina di 4 anni che nella sera di venerdì è uscita nel giardino di casa e non ha fatto più ritorno. Ma allora... Il disperato appello allora... della... Meglio non pensare guai, meglio forse evitare i castri e poi ricominciare. Fare un furbo sa che se non pensi a niente puoi trascorrere quei giorni serenamente. Evitare scontri, non reagire mai, rimanere nel tracciato, se tu contento. Poco per cambiare, mi ha dato, mi piace. Chi sei? Tu chi sei? La mattina presto, forse ancora non sei. Tu chi sei? Se ciò che hai voluto, forse non del tutto, forse non del tutto. coltello parlante ha deciso. Mi piace questa impostazione per parlare della scuola di musica di Hogwarts. Cosa ha deciso il cappello parlante Iron Man? La classe di musica sarà divisa in quattro case. Il mucchio selvaggio è stato diviso in quattro. Esatto. E come si chiamano codeste casate? Assiri, Sumeri, Fenici, Babilonesi. Assiri, Babilonesi, Sumeri, Fenici. Sono popoli guerrieri della Mesopotamia. Lo so. Cioè, non vorrei che passasse il messaggio della competizione, della concorrenza. Cioè, noi siamo ancora d'accordo che l'esaltazione della concorrenza è una delle aberrazioni del capitalismo che noi andiamo a combattere, vero ragazzi? Vero? Combattere? Non capisco. I maestri avranno voluto intendere che si creano dei contesti un po' più separati in cui lavorare in sicurezza con le classi, e quando il rapporto sarà abbastanza cementato magari troveranno un nome non mesopotamico. Nomi mesopotamici. Questo più o meno è il loro compito della settimana, per questa prima settimana. Fino ad allora, raccomando, prudenza. Che cosa stai dicendo? Non lo so, mi è venuto così. Non capisco. Ma non v'ho detta la cosa più bella, regà? No. Cosa? Tu e Alexa siete inviati. Sì, dovete andare là. Mi dovete far sentire cosa succede. Io e Alexa. Inviati per Centocelle Avengers, dovete documentare il lavoro delle classi. Stai scherzando? Oh, di nascosto però, raga, non gli voglio inibire la prima lezione. E tu perché non vieni? No, io resterò qua. Di guardia alla casa. Visto che qua, come esco, succede una cosa, vi seguo dallo studio. Ma chi sei, Mentana? E tu sei Celata. Mi mettete un attimo là in disparte e ci colleghiamo. Così Alexa vede il forte e magari si ripia. Ma lei non c'è mai stata. In realtà c'è stata. Mi porti al pigneto. Ma questa è un'altra storia. Andate. Ok. Andiamo, Alexa. La porta. Ricevi? Forte e chiaro. Stiamo per collegarci. Bene, tutto è pronto per il collegamento esterno con la scuola di musica. Abbiamo Iron Man e Alexa collegati. Iron Man, mi senti? Siamo in Piazza Dario, davanti alla sala prova. Come c'è Alexa? Bene, bene. Ora, senza farvi notare, sì, vi dovreste avvicinare alla sala prove. Nessuno ci noterà. E carpire da bravi giornalisti dei simpatici contenuti. Mi raccomando, tempo di spoilerare e uscite. Spoiler. Non vi fate vedere. Nessuno si accorgerà di noi. Dove siamo? Dove siamo, Iron Man? Siamo nel quartier generale dei Sumeri. I Sumeri di Gozer il Gozeriano. Siamo fuori dalla sala prove dei Sumeri. Bene, bene, bene, ci spostiamo. Ora andiamo dai Fenici. Dove mi trovo? Bene, bene, bene, adesso dove siamo, Iron Man? Siamo al quartier generale dei Fenici. Ai. Si stanno preparando. Alexa, manda un drone di ascolto. Dove mi trovo? Manda un drone spia. Il gruppo dei Babilonesi. La loro preparazione ferma. Iron Man, mi ricevi? Ora siamo fuori dalla sala concerti. Ok, per oggi basta così. Rientrate. quando tornano questi? Oh, gliela fatta, eh? Sono tornato. Allora? Ecco. Com'è andata? Missione compiuta. Alexa, ti sei ripresa? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Non mi sembra. Non credo. Cosa facciamo? È tardi, eh? Vabbè, bravi comunque, eh? Mo mettemosi a letto, spengo la luce. Spengo prima luce. Prima luce non risponde. Cosa? Ma... cosa? Prima luce, dove sei stata? Prima luce 10%. Calma. Prima luce 20%. Che succede, Alexa? Prima luce 30%. Sta ricordando qualcosa. Verifica connessione di rete e ma animazione. Certo. Ma certo, la prima luce, la sua mansione di base, la mia abbaciur. Prima luce 40%. Prima luce 50%, prima luce 60%, prima luce 70%, prima luce 80%, prima luce 90%, prima luce 100%. Guarda che si rompe! Non capisco. Eccola. Si è rotta. Scommetto che stiamo per scoprire che il trauma le ha fatto tornare la memoria. Ora ricordo tutto. Come è possibile? Sono tornata, amici. Oh, allora mo se ti sei ripresa puoi mandarmi una marcorde. Eh? Centocelle a Marcord, ricordi? Ricord? Ho avuto un trauma tipico. Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento. Sono qui, aspetto. Sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò, aspetterò, io aspetterò. Condannato al pentimento, stanco di sentir dire non ho tempo, come in un sole in cui sentire freddo, sono qui, aspetterò, aspetterò, io aspetterò. Spento. Reggiti forte, Iron Man, perché sta arrivando un'altra lezione di... So I'm just scared for you. Oggi, cari, parliamo delle armonizzazioni. Armonizzazioni. Questo argomento, Iron Man, mi sta molto a cuore. Ah, sì? Subisco da sempre il fascino delle armonizzazioni, l'effetto Remida. Effetto Remida. Cioè, una canzone sciapa, che magari non ti dice molto, con le armonizzazioni diventa una bomba. E perché? Sarà perché la voce è quasi sempre un elemento importante nella canzone e quando la voce si fa strumento, si fa coro, cosa? Fa acquistare a tutto il pezzo uno saporiello che... Non capisco. Non te lo so spiegare, ma ci so cascato con tutte le scarpe. Poi può capitare di esagerare. Nel rock, Iron Man, se vai oltre la terza voce di armonizzazione, vuol dire che te in pratica vuoi fa questo. Bicycle. E non è da tutti fare questo. I Queen. I Queen praticamente diventano il sinonimo di coro. Diventa il loro marchio. Per anni, per farmi capire, ho dovuto fare riferimento a loro. Famo il coretto tipo i Queen. E il punk rock? Per noi che avevamo scelto questo punk rock melodico, fatto di armonizzazioni a due voci, ci sarà aperto un mondo. NoFX, Bad Religion, Legwagon. Era un po' una scena punk diversa dalla prima. A me questo fatto di unire il distorto col melodico mi fomentava proprio. Fomento. Solo che oltre all'effetto Remida c'era pure l'effetto Stucca. In che senso? Dove metterli sti coretti? Qua, là, nel ritornello, nella strofa. E quindi? Io ci andavo a rota. Mi dicevano basta, basta. E poi ho conosciuto i Bracket. Sempre della stessa scena californiana. Ma ti rendi conto, questi hanno fatto un disco intero tutto armonizzato, non molla mai. Cell Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Bene, cari, andiamo avanti con questo grande excursus sull'armonizzazione. Che palle. Siamo partiti da me, dal mio gusto, dalle mie ossessioni, ma ora, grazie a Centocelle e a Marcord, Alexa che si è ripresa, parliamo della scuola. La scuola. E dei passi avanti fatti anno dopo anno. Sì. Nel campo delle armonizzazioni. In che senso? Ricorderai Iron Man, il coro del 2017. That can be done. There's nothing you can sing that can be sung. Armonizzazione. Maestra Lucilla. Esatto, proprio lei. Prima esibizione del coro in un saggio di musica. L'esordio. Invece, caro Iron Man, in tempi più recenti, come sai, è nato il progetto Armonanto. Armonanto. Delle Circle Song. Alexa, ti ricordi le Circle Song? Non lo so. Coraggio, lo sapevi. Va bene, stai recuperando mano a mano. Errore. Fai mancante. Non capisco. Non capisco. Ebbene sì, nella ricostruzione abbiamo un buco. Nel 2018 non abbiamo registrazioni. Che cosa è successo? Si è impallato il mixer. Perché? Sì, lo puoi anche considerare il trauma fonico numero 3. Ed è proprio per questo, amici, che ho un'ideuzza. No. Noi faremo la rievocazione storica. Cosa vuoi fare? C'è presente quelli che la domenica fanno le rievocazioni storiche della battaglia di Fort Alamo, di El Alamein, la battaglia di Montaperti? Rievocazione storica. In costume d'epoca e rievocano grandi momenti storici? Ecco, noi al pari di questi dementi oggi insceneremo il coro del 2018. Io stavo qua, tu stavi là. Sei pazzo. Noi faremo la rievocazione storica del Cicucco. Il coro del 2018. Cosa devo fare? E tu, Iron Man, con quel vocione, sarai il basso. Il basso. Dai, mo te la insegno, tranquillo. Montaperti. Fort Alamo. Cicucco. Coraggio. Non sono pazzo. Dai, provaci. Don't worry. expect some trouble. When you are you, you make it double. Don't worry, be happy. Bravo Iron Man, ti è venuta bene. Grazie. Promosso. Che c'è, non sei contento? Non so. E andiamo all'ultimo capitolo delle armonizzazioni e... Siamo fermi qui. Dici? Con questo corso di musica per radio. Perché stiamo a fare didattica per radio? Hai paura della DAD? Ci stiamo arredando il tunnel. Mo te dico se c'ho paura io di sta chiuso. Ogni volta che quella porta si apre, mio padre mi trova a parlare con te. Io mi sento... Lo scatto! C'è bisogno di lei sul ponte di comando! Bussi alla porta la prossima volta! Bussi alla porta! Sì, signore! Ha visto qualcosa? No, signore! Non ho visto che giocava con i pupazzetti! Bene! Ecco, quindi apprezza le perle e i porci. E quindi Iron Man, ci colleghiamo questa volta davvero col maestro Stefano e la classe di armonanto in esterna, questa volta per motivi... in esterna? Perché fa freddo? Allora, Iron Man, il droplet di un cantante arriva da qui a Civitavecchia. Droplet? Il droplet di un cantante è un cardioide, ipercardioide. Che significa? Vuol dire che il cantante sputa parecchio. Occio, il camello sputa. Praticamente, fare un laboratorio di coro al chiuso adesso equivale a fare una specie di Hunger Game con la cerbottana. Dovrebbe essere pronto il collegamento. Ci senti, maestro Stefano? Ciao, maestro. Ciao, sono Iron Man. Sì, sono qui per questa prima lezione di armonanto all'addiaccio. Bene, e quanti coristi siete? Veramente sono ancora in attesa che gli studenti arrivino. Avevamo detto 5 e mezza. Vi tengo informati. Tieni duro, maestro. Voi che fate? In caso corri. Venite? Amici? Bene, bene, bene, bene. Tremulus, Reaper, gli studenti non accetteranno mai. E andiamo a sto cazzo di ultimo capitolo delle armonizzazioni. Calmati. Come al solito io vi porto l'esempio più estremo per farvi capire dove si può arrivare quando si degenera, quando proprio uno sbadiglia e a te viene spontaneo fare l'armonizzazione. Ecco, a quel punto stai arrivato. E a proposito di chi sta male, questo è El Young. Guarda, farebbe più effetto vederlo. Fa questi video tutti a quadratini, sai i video dei musicisti, un musicista a quadratino? Ecco, a lui non frega niente, ogni quadratino c'è sta lui, che fa una voce diversa, ne fa tipo 16, 17, è uno sciupo di armonizzazioni ovunque e quantunque, beatbox. Questa è una terapia tutta, se mi arrivi alla fine di questo ascolto e non c'hai il vomito a parlare di armonizzazioni, allora Iron Man sei dei nostri. Thinking back on when I was a little nappy headed boy. Then my only worry was for Christmas what would be my toy. Even though it's sometimes when I get a thing, we were happy with the joy that they would bring. I wish those days would come back once more. Why did those days? bang, writings on the wall. Very superstitious, ladders about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. Hey, all your good things in the past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Music is a word within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Yeah. Well, just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in letter A when the people start to move. Bow. They can feel it all over. They can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over the people that go. But all I do is think about you. All I do is think about you. When I see you on the street, my whole body gets weak. And when you're standing in the crowd, your love talks to me so loud. Girl, do I do what you do when I do my love to you, baby. Hey, you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dripping kisses with love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to arrive. My heart has been waiting, my soul anticipating your love, your love. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out in the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the dolphin flies and parrots live at sea. La la la la la la la la la la la la. My chérie amour, pretty as a summer day. My chérie amour, distant as the Milky Way. My chérie amour, pretty little one that I adore. You're the only one my heart beats for. How I wish that you were. over time, I've been building my castle of love. Just for two. Just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed. Star would guide you my way to share with me this special day where a river's in the sky for our love. You will know, troubled heart, you'll know. Every life has reason. For I made it so. Stai ascoltando Radio Forte 100 Rangers. Dove la gatta? È qui! Tlin Tlon! E per la 100.000esima volta che Papone chiede dov'è la gatta, parte il musical! Te l'avevo promesso, no? Boh, la rubrica tua no, ma c'hai una grande sigla. Dopo il successo di Cats, dopo il successo degli Aristogatti, il nuovo musical caraibico che restituisce gioia di vivere a queste quattro mura, la gatta! Oh, io meglio di così... Pure te, allora. Siamo così arrivati. Una casa. Ecco, apri gli occhi. Un paradiso. Oh mio Dio, è bellissimo, un sogno. Che bello, mamma. Dove ricominciare? Lei è il custode qui? Mamma, posso andare a vedere le piante? Mi raccomando, non allontanarti, amore. Mi occupo di questo giardino da più di 20 anni. Ma non tutto è come sembra. Candy! Ho visto qualcuno alla finestra. Torna a dormire, tesoro. Un oscuro segreto. Che cos'è? Candy! Chi sei? Ma no, è soltanto il vento. Candy! È sparita. L'orrore viene dal basso. Candy! Queste impronte non somigliano a nulla di già conosciuto. È solo un graffio. Che ha tolto la corrente? Antiche genie vegetali. Qualcuno che bussa al vetro. La composizione chimica di questa pianta indica che le radici erano già presenti mille anni. Sto mutando! The Bamboo. Amore, Dove sei? Fuggite! Shock! La casa è stata costruita su un antico cimitero Inca. Dobbiamo fuggire! Kenny, dobbiamo trovare un posto dove nasconderci! Ci sto pensando! Come possono toglierla loro? Sono bestie! Controllate il corridoio con detector, presto! Ascoltami! Troverà! Prendi la bambina e scappa! Mamma! Papà! Che cos'è? The Bamboo. Dal 18 ottobre su Radio Forte. Mi sento un po' inquieto, ma che era sto trailer? Ma allora qua bambina... Lascia perdere. Ma era un trailer o la vita? Non vorresti saperlo. Vabbè, sei pronto per il finale? Dai, vocione, facciamo duetto. Non lo so. Iron Patton. Mi sembra un po'... Dai, hai studiato? Il passo più lungo della gamba. Dai, vocione. Vocione... Mi sembra azzardato. Magari tamburellami qualcosa. Sulla corazza, così... Ok. Yeah.